Il suddetto Simone, che si era fatto delatore dei beni e della patria, diffamava Ognia, come se avesse percorso Eliodoro e fosse stato l'organizzatore dei disordini. Osava definire nemico della cosa pubblica il benefattore della città, il protettore dei cittadini, il difensore delle leggi. L'odio era giunto a tal punto che si compirono delle uccisioni da parte di uno dei gregari di Simone. Allora Onia, vedendo l'aggravarsi dell'invidia e accorgendosi che Apollonio, figlio di Menesteo, stratega della Celesiria e della Fenicia, aizzava la perfidia di Simone, si recò dal re, non per farla parte di accusatore dei suoi concittadini, ma per provvedere al bene comune del popolo e di ciascuno in particolare. Vedeva infatti che senza un provvedimento del re era impossibile ristabilire la pace nella vita pubblica e che Simone non avrebbe messo freno alla sua pazzia. Ma Seleuco, essendo passato all'altra vita e avendo preso le redini del governo antioco, chiamato anche Epifane, Giasone, fratello di Onia, volle procurarsi con la corruzione il sommo sacerdozio e in un incontro con il re gli promise 360 talenti d'argento e altri 80 talenti riscossi con un'altra entrata. Oltre a questi, prometteva di versargli altri 150 talenti se gli fosse stato concesso di stabilire di sua autorità una palestra e un campo d'addestramento e di erigere una corporazione d'antiocheni a Gerusalemme. Avendo il re acconsentito, egli, ottenuto il potere, si diede subito a trasformare i suoi connazionali secondo i costumi greci, annullando i favori concessi dal re ai giudei ad opera di Giovanni, padre di quello Epulemo, che aveva guidato l'ambasciata presso i romani per negoziare il patto di amicizia e di alleanza. E stradicando le leggi cittadine inaugurò usanze perverse. Fu subito zelante nel costruire una palestra proprio ai piedi dell'acropoli e nell'indurre i giovani più distinte a portare il petacio. Così era raggiunto il colmo dell'ellenizzazione e la diserzione verso i costumi stranieri per l'eccessiva corruzione dell'empio e falso sommo sacerdote Giasone. Perciò i sacerdoti non erano più premurosi del servizio all'altare, ma, disprezzando il tempio e trascurando i sacrifici, si affrettarono a partecipare agli spettacoli contrari alla legge della palestra, appena dato il segnale dell'angelo del disco. Così, tenendo in poco conto le glorie patrie, stimavano nobilissime le glorie elleniche. Ma appunto a causa di queste, le sorprese una grave situazione e si ebbero, quali avversari e punitori, proprio coloro le cui istituzioni seguivano con zelo e a cui cercavano di rassomigliare in tutto. Non è cosa che resti impunita il comportarsi ampiamente contro le leggi divine, come dimostrerà chiaramente il successivo periodo di tempo. Celebrandosi in Tiro i giochi quinquennali con l'intervento del re, l'empio Giasone inviò come rappresentanti alcuni antiocheni di Gerusalemme, i quali portavano con sé 300 dramme d'argento per il sacrificio a Ercole. Ma questi portatori ritennero non conveniente usarle per il sacrificio, bensì impiegarle per un'altra spesa. Così il denaro destinato al sacrificio a Ercole, da parte del mandante, servì, grazie ai portatori, per la costruzione delle triremi. Antioco, avendo mandato Apollonio, figlio di Menesteo, in Egitto per l'intronizzazione del re Filometore, venne a sapere che costui era diventato contrario al suo governo e quindi si preoccupò della sua sicurezza. Perciò si recò a Giaffa, poi mosse alla volta di Gerusalemme. Fu accolto da Giasone e dalla città con dimostrazioni magnifiche e introdotto con corteo di fiaccole e acclamazioni. Così riprese la marcia militare verso la Fenicia. 3 anni dopo, Giasone mandò Menelao, fratello del già menzionato Simone, a portare al re denaro e a presentargli un memoriale su alcuni affari importanti. Ma quello, fattosi presentare al re e avendolo ossequiato con un portamento da persona autorevole, si accaparrò il sommo sacerdozio, superando l'offerta di Giasone di 300 talenti d'argento. Munito delle disposizioni del re, si presentò di ritorno, non avendo con sé nulla che fosse degno del sommo sacerdozio, ma avendo le manie di un tiranno unite alla ferocia di una belva. Così Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, fu tradito a sua volta da un altro e fu costretto a fuggire nel paese dell'Ammanitide. Menelao si impadronì del potere, ma non si interessò più del denaro promesso al re, sebbene gliene avesse fatto richiesta Sostrato, comandante dell'Acropoli. Questi, infatti, aveva l'incarico della riscossione dei tributi. Per questo motivo, tutti e due furono convocati dal re. Menelao lasciò come sostituto del sommo sacerdozio Lisimaco, suo fratello. Sostrato lasciò Cratete, comandante dei Ciprioti. Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e Mallo si ribellarono, perché erano state date in dono ad Antiochide, concubina del re. Il re partì in fretta per riportare all'ordine la situazione, lasciando come luogotenente Andronico, uno dei suoi dignitari. Menelao, allora, pensando di aver trovato l'occasione buona, sottrasse alcuni arredi d'oro dal tempio e ne fece omaggio ad Andronico. Altri, poi, si trovò che li aveva venduti a Tiro e nelle città vicine. Ma Onia lo biasimò, dopo essersi accertato della cosa ed essersi rifugiato in una località inviolabile a Daffine, situata presso Antiochia. Per questo Menelao, incontratosi in segreto con Andronico, lo pregò di sopprimere Onia. Quegli, recatosi da Onia e ottenuto con inganno la fiducia, dandogli la destra con giuramento, lo persuase, sebbene ancora guardato con sospetto, ad uscire dall'asilo, e subito lo uccise senza alcun riguardo alla giustizia. Per questo fatto non solo i giudei, ma anche molti altri popoli si mossero a sdegno e a tristezza per l'empia uccisione di tanto uomo. Quando il re tornò dalle località della Cilicia, si presentarono a lui i giudei della città, insieme con i greci che condividevano l'esecrazione dell'uccisione di Onia contro ogni diritto. Antioco fu infinitamente rattristato. Colpito da cordoglio e mosso a lacrime per la saggezza e la grande prudenza del defunto, subito, acceso di sdegno, tolse la porpora ad Andronico, ne stracciò le vesti e lo trascinò attraverso tutta la città fino al luogo stesso dove egli aveva sacrilegamente ucciso Onia, e là cancellò dal mondo l'assassino. Così il Signore gli rese il meritato castigo. Essendo poi avvenuti molti furti sacrileghi in città da parte di Lisimaco, su istigazione di Menelao, ed essendosene sparsa la voce al di fuori, il popolo si ribellò a Lisimaco, quando già molti arredi d'oro erano stati portati via. La folla era eccitata e piena di furore, e Lisimaco, armato di circa 3.000 uomini, diede inizio ad atti di violenza, mettendo come comandante un certo Aurano, già avanzato in età e non meno in stoltezza. Ma quelli, appena si accorsero dell'aggressione di Lisimaco, afferrarono chi pietre, chi grossi bastoni, altri raccorsero a mangiate polvere sul posto e si gettarono contro coloro che stavano attorno a Lisimaco. A questo modo ne ferirono molti, alcuni ne stesero morti, costrinsero tutti alla fuga, misero a morte lo stesso saccheggiatore del tempio presso la camera del tesoro. Per questi fatti fu intentato un processo contro Menelao. Venuto il re a Tiro, i tre uomini mandati dal consiglio degli anziani difesero presso di lui il loro diritto. Menelao, ormai sul punto di essere abbandonato, promise una buona quantità di denaro a Tolomeo, figlio di Dorimene, perché traesse il re dalla sua parte. Tolomeo invitò il re sotto un portico, come per prendere il fresco, e gli fece mutar parere. Così il re prosciolse dall'accusa Menelao, causa di tutto il male, e a quegli infelici, che se avessero discusso la causa anche presso gli sciiti, sarebbero stati prosciolti come innocenti, decretò la pena di morte. Così, senza dilazione, subirono l'ingiusta pena coloro che avevano difeso la città, il popolo e gli arredi sacri. Gli stessi cittadini di Tiro, indignati per questo fatto, provvidero generosamente a quanto occorreva per la loro sepoltura. Menelao, invece, per la cupidigia dei potenti, rimase al potere, crescendo in malvagità e facendosi grande traditore dei concittadini.